Rassegna Stampa Europa. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, bentornati alla rassegna stampa europea. Come sempre ci sono tantissime segnalazioni questa settimana dai giornali europei. Partiamo su una questione che sicuramente affronteremo ancora molto nei prossimi mesi, che è quella della Turchia. La Turchia, sapete, è un po' in stand-by, vorrebbe entrare nell'Unione Europea e molti sono convinti che sarebbe l'ideale cerniera tra, diciamo, Oriente e Occidente, però ci sono molte difficoltà. E allora Radikal, che è un quotidiano di Istanbul, ci racconta del recente voto della Commissione europea. Il titolo dell'articolo è "Finalmente un buon voto da Bruxelles", e appunto si spiega come la Commissione europea abbia pubblicato un rapporto equilibrato sui progressi del paese candidato all'adesione. La società turca dovrebbe approfittarne per avviare un dibattito sereno. Anche qui ricordo, per chi magari non ha seguito la vicenda, che le autorità di Bruxelles si sono più volte espresse, e magari anche i singoli governi, in modo negativo rispetto alla Turchia, e questo ha scatenato naturalmente le reazioni spesso stizzite delle autorità turche. Ecco, questa volta sembra che sia stato raggiunto appunto una certa serenità di giudizio. Vi leggo la prima parte di questo articolo di Orhan Kemal Cengiz, uscito appunto su Radikal. La lettura dell'ultimo rapporto sul progresso dei negoziati sull'adesione della Turchia all'Unione Europea permette di sfuggire all'estremizzazione che caratterizza oggi la società turca. In effetti questo testo misura la strada fatta dal nostro paese, e quando si legge in questo rapporto che le fosse comuni scoperte nell'est non sono state oggetto di indagini approfondite, non possiamo che essere contenti della fine dell'incubo che abbiamo vissuto negli anni 90 nella regione orientale a maggioranza curda, un'epoca in cui ogni giorno persone venivano uccise e i loro corpi gettati per strada. Quando la Commissione europea si rallegra che le manifestazioni in Turchia che celebravano l'anniversario del genocidio armeno il 24 aprile hanno potuto svolgersi pacificamente senza ostacoli, ci si ricorda ancora che non molto tempo fa, nel 2005, un convegno universitario sulla questione armena a Istanbul aveva provocato forti tensioni. E questo quindi un segnale positivo, perché, come dicevamo, sarebbe importante che questi negoziati andassero a buon fine, ma sarebbe importante soprattutto che finalmente smettessimo di guardarci, diciamo così, in cagnesco, senza vedere i progressi oggettivi che sono stati fatti nella società turca. Ma passiamo a un'altra questione di cui ci occupiamo tutti i giorni, che è quella dei paesi europei in maggiore difficoltà. Tra questi naturalmente c'è la Spagna, oltre all'Italia e alla Grecia, che è forse il caso più grave. Allora, El País ha pubblicato un articolo questa settimana in cui si parla di una, quella che noi in italiano chiameremmo una manovrina. Il titolo è "Il governo impone altri 17,5 miliardi di aggiustamento di fronte al deficit". Il piano di bilancio presentato dalla Spagna alla Commissione europea il 17 ottobre prevede tagli per 17,5 miliardi di euro nel 2014 e 2015, riporta El País, che sapete è uno dei più importanti quotidiani spagnoli insieme al El Mundo. El País è un pochino più di sinistra, è il Mondo un po' più di destra. Questi dolorosi risparmi per altri 2 anni saranno condivisi dai comuni e dalle regioni e saranno effettuati in pieno periodo elettorale, prima degli scrutini regionali e locali. Nello specifico saranno aumentate le tasse, venduti gli asset e soppressi alcuni servizi pubblici. Se vi suona, tutto questo vi suona familiare, credo non sbagliate, perché è esattamente quello che capiterà a noi italiani. E d'altro canto, quando appunto i bilanci sono in condizioni così gravi, pare proprio che nessuno si sia inventato formule migliori che questa, appunto aumentare le tasse, vendere il patrimonio nazionale, gli asset e sospendere o sopprimere alcuni servizi pubblici molto costosi. Sapete come nella nostra finanziaria si era paventato appunto un taglio netto alla sanità, che poi pare scongiurato, però è sempre lì in agguato. Secondo El País il piano prevede di raggiungere un deficit del 5,8% del PIL nel 2014 e del 4,2% nel 2015, ipotizza migliori prospettive per la crescita nei 2 anni seguenti, con una crescita del PIL rispettivamente dell'1,2% e 1,7%. Un po' di wishful thinking non basta, perché sicuramente sapete, lo sentirete anche quando ascoltate Radio 24, che quando appunto si fanno questi sforzi per ridurre il deficit, poi in realtà è anche molto difficile riuscire parallelamente a mantenere prospettive di crescita. Il Guardian è un quotidiano britannico di grandissimo prestigio, il suo sito è in assoluto il sito più visitato, il sito di news più visitato in inglese, quindi anche più di quelli americani. Questo articolo di Michael Burke parla di un altro paese che è stato sicuramente sottoposto a un regime di austerità in passato e che lo è ancora, dopo aver peraltro vissuto un boom economico. Parliamo dell'Irlanda. Il titolo è Il prezzo dell'austerità. Nonostante le promesse del governo, le sofferenze dell'economia irlandese non sono ancora finite. Negli altri paesi oggetti di bailout, le prospettive sono ancora peggiori. Il pezzo è tra l'altro illustrato da una vignetta dove si vede un grande prato irlandese con le immancabili pecore e appunto le persone in coda di fronte a un personaggio, persone in coda vestite in modo molto casual e di fronte a un personaggio che invece è vestito in modo elegante, che ha tutta l'aria di essere o di rappresentare il governo. Queste persone arrivano vestite e se ne vanno mezze nude, tosate come se fossero appunto pecore. Vi leggo la prima parte dell'articolo. Ancora una volta l'Irlanda è considerata l'allieva modello della scuola di austerità in Europa, con il primo ministro Enda Kenny che sostiene che il suo governo sta per uscire dal programma di bailout stabilito dalla Troica, che fa tanta paura alla Grecia, ma anche a noi. La Troica è il modo in cui si definisce questo trio di istituzioni, cioè l'Unione Europea, la BCE, la Banca Centrale Europea e l'FMI, il Fondo Monetario Internazionale. Afferma sempre Enda Kenny che l'era dell'austerità sta per volgere al termine. Entrambe queste affermazioni sono chiaramente opinabili, ma di fatto gettano luce su alcuni importanti aspetti dell'attuale situazione in Europa, perché naturalmente non c'è soltanto l'Irlanda, ma ci sono paesi come la Grecia e il Portogallo che sono quelli in maggior crisi, e poi naturalmente c'è la Spagna e ci siamo noi. Allora, le ultime righe di questo pezzo di Michael Burke, che tra l'altro trovate integralmente sul sito di presseurope.eu, che è questo servizio legato anche a internazionale che ci permette di leggere articoli anche in lingue, in questo caso l'inglese forse ci si può arrivare, ma in lingue come per esempio il polacco o il turco, che naturalmente sarebbe più difficile leggere in originale. Ecco quindi le ultime righe dell'articolo del Guardian. L'economia resta depressa e l'effetto è l'accumulo di prestiti tossici presso le banche di investimento, compresi i mutuatari in forte difficoltà. L'austerità è nemica della crescita e non è assolutamente in grado di risolvere la crisi. Un dibattito, come dicevo, che sentiamo fare spesso, cioè quello tra il dilemma, questo dilemma tra cercare di tornare a crescere e però rispettare anche i vincoli, in questo caso imposti dalla Troica, ma che sempre si cerca di ripristinare quando i buchi nei bilanci governativi sono troppo grossi. Ma vediamo la Croix che, per volgere un pochino, per dare una nota di ottimismo a una delle ultime segnalazioni che riusciamo a fare. La Croix è una rivista francese. Il titolo dell'articolo è Un rinascimento europeo è possibile. Invece di cercare dei capri espiatori, gli europei dovrebbero ammettere le loro responsabilità nella crisi e riscoprire le qualità che hanno fatto grande la loro civiltà. Reagire al declino è necessario per il bene di tutto il mondo. L'avete sentito del resto anche in altri articoli, si dà sempre la colpa sostanzialmente alla crisi, al fallimento della banca d'affari Lehman Brothers avvenuto nel settembre 2008 e che avrebbe innescato questa crisi mondiale. Le Croix ci ricorda che tutto sommato non è che in quel momento l'Europa stesse andando benissimo e poi sono arrivati i cattivoni di Lehman Brothers e le altre banche d'affari americane di investimento hanno rovinato tutto. Vi leggo quindi la parte iniziale. Un'Europa più piccola in un mondo globale? Si tratta di un'evidenza storica. Sì, l'Europa, e con lei l'Occidente, è diventata più piccola in un mondo più globale, eppure è immensa. Sempre che queste cifre non siano semplici dati di propaganda, nel 2013 l'Europa rappresenta 500 milioni di abitanti, 4,5 milioni di chilometri quadrati, un prodotto interno lordo di 18 mila miliardi di dollari, superiore quindi a quello degli Stati Uniti e 3 volte quello della Cina. Un risparmio finanziario disponibile per la sola zona euro di 12 mila miliardi di euro. Naturalmente, sapete, il problema è che sì, possiamo aggregare questi dati, ma siamo davvero poi l'Unione Europea, è davvero un unicum? Questa naturalmente è la grande questione che poi sottostà al problema di creare, per esempio, delle istituzioni finanziarie più forti, uniche, di creare un Parlamento che legiferi per davvero, e non sapete come il Parlamento Europeo che legifera, però poi quelle leggi non vengono direttamente applicate in tutti i paesi. Ma concludiamo con un'ultima segnalazione da un quotidiano albanese, Skekulli, che si intitola Albania, le 5 raccomandazioni e i 33 punti per i negoziati con l'Unione Europea, perché nella pipeline, possiamo chiamarla così, dell'Unione Europea, che potrebbe ingrandirsi ulteriormente, c'è anche l'Albania. Ecco allora le prime righe. Nel suo rapporto sulle priorità in merito all'allargamento dell'UE per il 2014, la Commissione Europea ha proposto di accordare all'Albania lo status di candidato all'adesione, cancellando le condizioni riproposte nel 2009. Il quotidiano albanese scrive che, presentando il rapporto, il commissario all'allargamento, perché esiste un commissario all'allargamento nella Commissione Europea e si chiama Stefan Füle, ha fornito una nuova lista di raccomandazioni che dovranno essere seguite dal nostro paese: depoliticizzazione dell'amministrazione, rafforzamento dell'indipendenza della giustizia, lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, ma anche protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale. E anche qui forse tutte queste questioni ci suonano familiari, forse anche noi in Italia dovremmo un po' riconsiderarle tutte con maggiore serietà. Era l'ultima segnalazione, vi auguro un sereno sabato da Giulia Crivelli, appuntamento a settimana prossima. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.